anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Allora, 7:19 minuti tra 20 secondi, siamo qui in diretta su Radio 24. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino, Ci siamo anche oggi con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Peter Bescapè in regia e poi più avanti arriva Oscar Giannino dopo il giornale radio delle 8. Allora andiamo a leggere i giornali, andiamo su. Non c'è su, niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a giovedì 27 aprile con i titoli, le aperture. Il Sole 24 Ore guarda all'America e alla sfida di Trump. Maxi taglio alle tasse di imprese e famiglie. L'aliquota per le aziende scende al 15%. Il piano che punta su un più 3% di crescita del PIL è l'annuncio di Trump. Mentre se arriviamo in Italia siamo ancora alla questione della legge elettorale. La spinta di Mattarella, capo dello Stato, che sollecita anche la nomina del giudice mancante della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, dice va fatta subito. Ecco questo il titolo per il Corriere della Sera. Subito la legge elettorale. Ho perso il conto. Siamo nella settimana decisiva. Numero. Siamo ripartiti da zero. Tipo siamo 15 dopo il referendum per la legge elettorale, dopo averne avute 200 e rotte per la legge elettorale vecchia, che però va cambiata. Vabbè. Repubblica, legge elettorale subito. L'ultimatum di Mattarella riapre la partita del voto. Capite che quando si legge subito la legge elettorale in un paese in cui per fare una qualsiasi cosa ci si mette, viene un po' da ridere. Io ho riso 10 minuti stamattina quando ho visto i giornali. Non per l'invito di Mattarella, ovviamente, ma per il fatto che non verrà fatto. La Stampa, legge elettorale. Il pressing di Mattarella è urgente. E Mattarella, subito la legge elettorale, l'apertura di Avvenire. Mentre il Manifesto mette una foto del Parlamento e il titolo è Fuori legge. Mattarella anticipa le primarie, avverte il probabile vincitore. Con le attuali due leggi elettorali incompatibili non si può andare al voto. E poi c'è Alitalia, la fine di Alitalia si può evitare. Un'intervista al presidente di Confindustria Boccia ed è l'apertura del Messaggero. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi tentenna nella morsa tra Alitalia e Mattarella. La Verità, altro che espulsioni, carta d'identità a tutti i clandestini. È l'apertura, il decreto del ministro Minniti che impone ai sindaci di scrivere all'anagrafe gli immigrati che sono ospiti nei centri di accoglienza. E così possono poi accedere a servizi sociali e case popolari. L'apertura del Giornale invece, e voglio partire da qui perché anche su Avvenire c'è una pagina dedicata a questo, l'allarme Istat, uno su tre sarà immigrato, ecco l'Italia prossima avventura. Per il Giornale è un motivo per raccontare in questa fotografia dell'Istat, è invasione. Entro il 2065 20 milioni di stranieri stabili. Allora, visto che in genere dico soldi, soldi, soldi, ora dico numeri, numeri, numeri. Oggi do i numeri. Solo oggi, direte voi. Vabbè, Avvenire. 2065, futuro difficile. In Italia saremo 7 milioni in meno. È l'Istat, quindi sono dati ufficiali. Diego Motta racconta, pagina 7 di Avvenire, l'Italia nel 2065 avrà 53 milioni di abitanti, una vita media di 90 anni per le donne, 86 per gli uomini. Saremo di meno ben 7 milioni rispetto a oggi, ma vivremo più a lungo perché le future nascite non saranno sufficienti a compensare i decessi. Il report Istat sul futuro demografico del paese non fa sconti e disegna per la prossima metà del secolo un'Italia sempre più ripiegata su se stessa. A mutare saranno gli equilibri territoriali, pure. Il centro-nord si troverà a cogliere il 70% dei cittadini residenti, mentre il sud sprofonderà sempre più nel declino. Se questa è la direzione, va detto che non ci sarà un andamento sempre regolare nei prossimi 50 anni. Esistono scenari a diversi livelli, secondo l'orizzonte temporale adottato. Si va dalla lieve decrescita prevista dal prossimo decennio a una diminuzione più forte della popolazione tra il 2025 e il 2045. ma è nella proiezione a 30-50 anni da oggi che le stime peggiorano sensibilmente, con un saldo negativo di 4,9 milioni di unità. Questi i dati. Secondo il giornale, questa è l'apertura, uno su tre sarà immigrato, gli italiani di domani saranno pochi, anziani, uno su tre appunto immigrato, o comunque immigrato che proveniente da altri paesi, poi magari nazionalizzato, diventa italiano, ma non nato in Italia. Numeri. A proposito di numeri, Salto sul Messaggero dedica una pagina con Lorena Lo Iacono, pagina 12, al numero dei laureati in Italia. Anche qui andiamo maluccio, cari ascoltatori. Cresce il numero dei laureati in genere, ma restiamo in coda all'Unione Europea. Siamo penultimi, peggio di noi fa solo la Romania, per il numero di laureati. Un ragazzo su sette, per la verità, non arriva nemmeno al diploma, altro che laurea. Nel 2002 appena il 13% dei trentenni, il 13% dei trentenni era dottore, ora siamo saliti al 26%, quindi almeno è confortante l'idea che aumenta il numero dei laureati. Ma, ripeto, in Italia, dati Eurostat, nella fascia 30-34 anni, i laureati sono il 26%, la media dell'Unione Europea è il 39,1%. I primi della classe sono la Lituania, 58,7% di laureati, davanti al Lussemburgo, Cipro, Irlanda, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Olanda, Belgio, Estonia, Polonia, Slovenia, Francia, Lettonia, Grecia, siamo al 42,7% di laureati, Spagna, Austria, Portogallo, Bulgaria, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Malta, Croazia, eccola lì l'Italia, finalmente il 26,2% di laureati, davanti alla Romania, ultimo posto, 25,6% di laureati. Numeri, sempre numeri, siamo 52esimi, questo invece nella classifica che Reporters Sans Frontières, cioè Reporters Senza Frontiere, giornalisti, stila ogni anno sulla libertà di stampa nel mondo. Qui è scoppiato anche un caso politico. L'Italia sale al 52esimo posto, meglio rispetto all'anno prima. Eravamo al 77esimo posto come libertà di stampa. Il caso politico è che Reporters Sans Frontières, nelle difficoltà dell'Italia, accusa palesemente il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo per indicare i giornalisti cosiddetti nemici, tanto che Beppe Grillo reagisce sul blog: in un paese in cui un ex premier condannato tiene in mano tre televisioni da oltre 20 anni, dove molti giornali nazionali sono amministrati da editori impuri iscritti a partiti politici, o peggio, dove alcuni quotidiani sono perfino proprietà diretta di partiti politici, il problema sono io che scrivo su un blog. E insomma, c'è l'accusa, e infatti Libertà di Stampa accuse a Grillo: io il problema, è un sistema marcio, Reporter Senza Frontiere contro il leader del 5 Stelle per le liste di giornalisti su blog. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, ma Repubblica mette questa come la notizia principale di pagina 2 e 3, la relazione dell'organizzazione francese citata per anni, peraltro a ogni comizio del Movimento 5 Stelle. A questo punto, come dire, adesso non sono più amici, evidentemente, nel senso che per anni sicuramente Beppe Grillo l'ha citata per dire: vedete, siamo in basso come libertà di stampa, ora che invece che siamo tra l'altro migliorati, 52esimi, però ora che accusano il Movimento 5 Stelle non sono più quelli che erano amici, sono diventati un po' nemici. Va bene, al di là di numeri, la cronaca invece. La cronaca. È cronaca ma anche numeri, se volete, ed è l'articolo che mi fa più della giornata, è l'articolo da mani sul volante se siete alla guida. Ricordate la questione del taglio dei vitalizi o meglio il contributo di solidarietà che il PD è riuscito a far passare alla Camera, tra l'altro anche lì con le proteste del Movimento 5 Stelle, perché dicevano è una cosa farlocca, è una cosa minima, noi volevamo abolirli, c'era stata anche un'irruzione nell'ufficio di presidenza della Camera con conseguenti espulsioni, vabbè, ricordate quella vicenda lì di qualche giorno fa. Ebbene, Franco Bechis su Libero racconta, pagina 6, Grasso e Boldrini bisticciano, il taglio dei vitalizi è a rischio. Che cosa succede? Succede, scrive Bechis, che dovrebbe scattare dalla prossima settimana il contributo di solidarietà sui vitalizi che il 22 marzo con un blitz del PD era stato approvato dall'ufficio di presidenza della Camera per fermare una diversa proposta sulle pensioni di tutti i politici del 5 Stelle. Il condizionale però è d'obbligo, perché al momento quella delibera non avrebbe alcun effetto reale, sarebbe solo uno spot che il PD si è fatto in vista delle primarie, ben sapendo che non sarebbe stato applicabile. Il parere di tutti i costituzionalisti e gli esperti della materia è univoco. Il contributo di solidarietà su fasce di reddito previdenziale è già stato bocciato con grande evidenza dalla Corte Costituzionale e non avrebbe alcuna possibilità di essere applicato finché non dovesse adottare la stessa decisione anche il Senato della Repubblica, decisione che al momento non è stata presa. Dunque, secondo Libero, siccome il Senato non ha trovato ancora l'intesa con la Camera, non distano tanto, potrebbero anche parlarsi, insomma, potrebbero trovarla. Comunque, siccome questa intesa non c'è tra Senato e Camera, anche la votazione per ridurre gli assegni con contributo di solidarietà e vitalizi alla Camera sarebbe nulla. Libero, Grasso e Boldrini bisticciano e il taglio dei vitalizi è a rischio. E a lei. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, addirittura. E allora, addirittura, sono le 7:33 minuti, ripartiamo da Alitalia, che come racconta Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore a pagina 6, ora vede il via libera al prestito da 400 milioni, è un prestito ponte per cercare di garantire l'operatività dei voli. Si comincia ovviamente a delineare il futuro di Alitalia, scrive Pogliotti, divenuto incerto dopo la bocciatura al referendum del preaccordo tra aziende e sindacati. Oggi dovrebbe tenersi il CDA per fornire il quadro patrimoniale all'assemblea dei soci, che si riunirà subito dopo per confermare cosa? L'impossibilità di procedere alla ricapitalizzazione. E, ovviamente si cerca di intravedere quello che sarà il futuro di Alitalia. Per il Corriere della Sera ora si fa avanti Lufthansa, per la verità per i vari giornali, insomma, ma Giuliana Ferraino e Lorenzo Salvia raccontano che Lufthansa, questo siamo a pagina 5, potrebbe essere interessata ad Alitalia, ma a quali condizioni? L'idea è di acquistarla dopo il fallimento, quindi in pratica a costo zero. Il secondo è che Lufthansa si farebbe carico di un pezzo della compagnia tagliando 9.000 dei 12.000 dipendenti, quindi tenendone solo 3.000. Quindi capite che se la soluzione è la soluzione di mercato è questa. Due interviste vi sottopongo. Sul Messaggero c'è, ed è l'apertura del quotidiano, intervista del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che parla di Alitalia, intervistato da Umberto Mancini a pagina 3. I sindacati hanno sbagliato, gravi danni per Roma, questo è il titolo. Dice Boccia, forse ha avuto un ruolo determinante la commedia degli equivoci che va in scena quando non è chiaro chi debba fare che cosa e gli attori, governo, sindacati, imprenditori, privati, si muovono aspettando ciascuno dagli altri la battuta decisiva. Tentare di rilanciare una compagnia, comunque, risponde Boccia a una domanda sulla proposta, per la verità non ancora esplicita, ma pare sotto traccia di Matteo Renzi di lanciare la compagnia. Tentare di rilanciarla, soprattutto se è il calibro e il significato dell'Italia, non è mai sbagliato. Oggi più che ieri, con risorse scarse e serrata competizione, occorre però misurare bene ogni passo per non cadere in fallo. Sostegni, aiuti, sussidi non sono più possibili e c'è bisogno di una presa di coscienza generale che sfugga dalla trappola tutta italiana del «poi tutto s'aggiusta». Ci affrettiamo a chiarire, ribadisce Boccia, che non pensiamo alla nazionalizzazione ma a scelte di mercato. Poi, certo, dice, sarebbe comunque una perdita dolorosa, è un'azienda con 20.000 persone tra dirette e indirette, quindi non è certo una faccenda poco seria o poco importante e sarebbe un danno, gravi danni per Roma. La seconda intervista che vi propongo è Susanna Camusso, leader della CGIL, intervistata a pagina 6 del Corriere della Sera da Enrico Marro, dice Susanna Camusso, questo è il titolo, coinvolgere la Cassa Depositi, poi intesa con un socio europeo. Non sapevamo che il risultato del referendum era ad altissimo, che il risultato del referendum era ad altissimo rischio, dice Susanna Camusso, l'avevamo detto a tutti e in tutti i modi. E poi anche lei esclude la nazionalizzazione. No, non mi pare una buona idea. Invece mi chiedo perché il governo debba dare un prestito ponte finalizzato allo spezzatino, alla liquidazione e non utilizzare invece le risorse pubbliche per un progetto di rilancio. E come? Coinvolgendo Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe indirizzare l'Italia verso un'acquisizione da parte di una compagnia europea che ne salvaguardi il futuro. Scusi Camusso, lei parla di acquisizione europea, ma i sindacati nel 2007 si misero di traverso ad Air France. Una scelta sbagliata, secondo molti. Niente affatto, la difende così Camusso. Eravamo contrari a Air France perché non avrebbe dato una prospettiva di sviluppo all'Italia. Ma lavorammo per una soluzione migliore, Lufthansa, e non ho mai capito perché il governo non andò avanti su quella strada. E oggi invece si ripartirebbe da lì? Se fosse possibile, sì. Ecco che anche la Camusso spinge verso una soluzione di mercato Lufthansa e per chiudere il cerchio Repubblica con Fabio Bogo racconta pagina 11 meno tagli, pax sindacale, ecco la mediazione di Banca Intesa per aprire a Lufthansa. Dunque questa pare l'opzione al momento più credibile, certo. Il pallino della vicenda sta finendo in mano a Banca Intesa, questo scrive Repubblica, dopo il rovinoso esito del referendum. Ecco allora che per tirare fuori dalle secche, finanziare la compagnia, è la banca milanese a tentare di reannodare i fili di una trattativa che i più danno per definitivamente compromessa. È un progetto, scrive Repubblica, a cui sta lavorando Gaetano Miccichè, che ha un'architettura complessa, prevede il coinvolgimento di diversi soggetti, un cronoprogramma serratissimo e il primo punto riguarda la riduzione del costo del lavoro, proprio lo scoglio su cui si è infranto il piano della compagnia. Comunque tutto il piano viene spiegato da Repubblica e lo trovate a firma Fabio Bogo. Che succederà di Alitalia? Certo sarà uno dei temi in attesa di capire se Renzi svelerà quello che pare il suo piano una volta diventato, pare, se sarà così, segretario del Partito Democratico. In tutto, la giornata politica ieri si è animata con il monito, la strigliata, ecco, lo dico in un termine poco istituzionale, di Mattarella, che ha convocato Grasso e Boldrini, cioè Presidente del Senato e Camera, dicendo il Parlamento deve accelerare sulla questione della legge elettorale, invitando e ribadendo il fatto che servono sistemi omogenei, cosa che non abbiamo al momento. E allora adesso è tutto un gran velocizzare alla Camera, la riforma va in aula il 29 maggio, il 4 giugno l'elezione del giudice costituzionale, perché manca un giudice costituzionale che devono eleggere Camera e Senato riuniti, e anche su questo Mattarella ha detto bisogna darsi una bossa, non l'ha detto così, ma il concetto è questo. Ora Renzi, in un retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 3, fa notare, ma come, non è colpa nostra sulla legge elettorale, non abbiamo neanche più il controllo della Commissione Affari Costituzionali. Vi ricordate la vicenda dell'elezione di Salvatore Torrisi, carneade della politica, un mesetto fa, colui che non era il candidato del Partito Democratico e che si è ritrovato in qualche modo lì alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, tutti anche dal suo partito, Alfano gli ha detto dimettiti, è lì, tranquillo, ve lo siete dimenticati. Salvatore Torrisi ha fatto sapere anche ieri che non ha alcuna intenzione di dimettersi. La legge elettorale si farà, così disse Salvatore Torrisi, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ora Renzi, in questo retroscena del Corriere, cita come il motivo per cui, vedete, non abbiamo neanche un presidente della Commissione del nostro partito, come facciamo a fare la legge elettorale? La commedia della politica, che però insomma è lo strumento che ci deve dare i governi, le leggi. Tra l'altro ieri io non ho visto il confronto su Sky, tutti i giornali raccontano di questo confronto tra i tre candidati alle primarie del 30 aprile del PD, vale a dire Renzi, Emiliano e Orlando, di un confronto, cito dal commento di Sofia Ventura sul Giorno, che barba, che noia, che barba, come dicevano Sandra Mondaini, Raimondo Vianello. E Sofia Ventura scrive: eccoli i candidati di queste primarie del PD in confronto in diretta su Sky, primarie svogliate, animate dalla sfida del giovane fiorentino che attrassero più di 3 milioni di persone, quelle del 2012. Per il 30 aprile si parla di circa 1,5 milioni di votanti, quindi già un 25% in meno. Anche il web ha registrato questo minore interesse. Secondo uno studio pubblicato dagli statigenerali.it, il volume delle conversazioni su Twitter sul tema è un sesto rispetto al 2012, la metà rispetto all'elezione del segretario del 2013. Per alcuni lo stesso Renzi ha tenuto il suo profilo basso, per non ripetere una controproducente sovraesposizione del referendum. E oggi la competizione, scrive Sofia Ventura, pare più come una questione interna al PD con un vincitore. Certo, i dibattiti, si sa, mobilitano gli indecisi, ma difficilmente questo dibattito avrà l'effetto di rivitalizzare queste primarie stanche. Un'occhiata su Twitter, il parere tra comunicatori e osservatori pare unanime. Noia. Si comprende che Orlando e Emiliano si pongono più a sinistra, Renzi rivendica l'attività del suo governo, frecciatine tra i candidati, qualche battuta di Emiliano, un po' più di vivacità nelle domande tra candidati, ma cose già sentite, risentite, mentre latitano i progetti e le visioni. Un po' è colpa di questo telequiz, qualcuno l'ha definito così, un po' forse è colpa dei protagonisti. Ma uno che l'ha visto, rivisto, rivisto sicuramente è Mauro Meazza, che ha passato la sua serata così anche in replay, vedendo in moviola se c'erano anche degli episodi dubbi, questo è il confronto su Sky. Mauro Meazza, il risultato è? Addirittura, no. Buongiorno. Direi addirittura a questo punto, come ha detto giustamente l'ascoltatore in precedenza, addirittura. Caro Alessandro Milan, no, devo ammettere che in realtà ero preso a prepararti il Sole 24 Ore nelle parti in cui ti andrò a consigliare, anche se molto altro ti potrei dire naturalmente, ma ti voglio innanzitutto completare le tue segnalazioni su Alitalia, perché oggi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore trovi anche un interessante grafico sul traffico dei passeggeri tra low cost e vettori tradizionali, tra compagnie low cost e vettori tradizionali, e lì si vede proprio dal grafico, se puoi mostrarlo agli ascoltatori per favore. Sì, ecco. Poi, qua, aspetta. L'hai trovato? Sì. Nella pagina di Alitalia, nella pagina 6, in basso c'è un contributo molto ampio e appunto questo grafico che tu stai mostrando agli ascoltatori, mi sembra molto chiaro. Il lavoro di Giuseppe Latourra dimostra come appunto ci sia sia prossimo il sorpasso tra la low cost a livello mondiale e le compagnie tradizionali. Venendo invece a questioni, come dire, di terra, ti vorrei parlare di Casa 24, perché tu sai che oggi, essendo giovedì, c'è Casa 24 sul Sole 24 Ore. Sì. Ci occupiamo del leasing abitativo, una modalità alternativa al mutuo, come sai, o forse non sai, ma allora a questo punto leggi su Casa 24, che come ti spieghiamo possa essere utilizzato e quali istituti al momento lo offrono. Sai che si prepara una e-fattura per tutti, non nel senso la fattura, no, la fattura elettronica, per tutti, perché nel DEF, cioè non è che fattura, esatto, non è quel senso, la fattura e la fattura, no, la e fattura, la fattura elettronica che si vorrebbe estendere con la manovra d'autunno, quella che si farà per il prossimo anno, a livello generalizzato a tutti gli scambi business, a tutte le persone insomma di dotate, persone giuridiche dotate di partita IVA e persone fisiche pure, con delle modifiche ulteriori. Ma è tutto spiegato su Sole 24 Ore, non ti voglio far perdere tempo né tantomeno farlo perdere agli ascoltatori, anche perché come sempre devi subito staccare e conservare la guida alla manovra, alla manovrina che ti presentiamo su Norme e Tributi. Già l'hai fatto? Certo. No? Ah, ecco. Allora sai già che si parla di ACE, che è l'aiuto alla crescita economica, sì, cioè misura di favore che però viene ristretta per le imprese, per misura di favore per la patrimonializzazione delle imprese, e poi di Patent Box. Il patent box e i marchi, quindi non ti tedio perché già l'hai staccata, l'hai conservata, sappi che anche domani proseguirà questa guida sul Sole 24 Ore che abbiamo cominciato il 25 aprile, quando tu eri in vacanza, non per fartelo pesare, ma te lo dico. Leggendo avidamente Finanza e Mercati scoprirai che stai chiedendo, no, non tu, la tua squadra omonima sta chiedendo, sta offrendo un bond da 123 milioni. Non potresti dire di avere due urini, caro Milan, no, è tutta una questione di finanziamento della nuova proprietà che però viene spiegata magistralmente dal nostro Carlo Festa proprio sulle pagine di Finanza e Mercati. E poi ti segnalo, ma anche se molto altro avrei da dirti, che nelle pagine di Imprese e Territori che tu leggerai scrupolosamente, oh, meno male, va, un sospiro di sollievo. C'è anche questo confronto sulle opere, le grandi opere che erano collegate a Expo a Milano, e che allora cosa è rimasto in fondo agli occhi tuoi, diceva il poeta, cosa è rimasto a Milano, quali opere sono state fatte e quali no, il bilancio sulle pagine di Imprese e Territori. E a questo punto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, l'aperitivo dell'informazione! Allora, alle 7:49 minuti, cari ascoltatori, vi segnalo per come intervista, c'è un'intervista a Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, intervistata da Daniele Manca sul Corriere della Sera, un'intera pagina, e come presidente di Mondadori dà anche tutta una interpretazione sull'importanza dei libri, l'importanza della cultura, anche come argine alla Le Pen. E voi dite che c'entra? Beh, fa un lungo ragionamento Marina Berlusconi e dice: al di là dei populismi, lasciando stare le definizioni che spesso portano fuori strada, il successo di certi movimenti, di certi leader, non spunta dal nulla. È la comprensibile risposta a una crisi economica devastante, alle insicurezze profonde che una globalizzazione non gestita ha creato. Comunque, non è questo il punto. Non credo spiegabile la vittoria di Trump se non guardando ai troppi sbagli commessi da Obama, così come penso che Marine Le Pen non raccoglierebbe i consensi che raccoglie e la Brexit non sarebbe passata in un'Europa che non si fosse smarrita tra burocrazia ed egoismi. Rispetto Marine Le Pen, comprendo le motivazioni molto concrete e non più eludibili di chi la vota, ma penso che una sua elezione rischierebbe di essere il colpo di grazia per un'Europa già estremamente fragile. E la soluzione, dice Marina Berlusconi, è anche cultura e libri contro l'argine di quello che non chiama populismo, ma questo è. Tra l'altro, in questa lunga intervista parla anche della vendita del Milan e dice: è una sconfitta per tutti, quello del closing non è stato un gran giorno né per mio padre né per la nostra famiglia, ma non si poteva fare altrimenti. Così Marina Berlusconi. Va bene, veniamo alla cronaca, lasciando la politica. La cronaca dice che è stato arrestato Davide Vannoni, forse lo ricordate, anche noi lo abbiamo ospitato, abbiamo intervistato quando il suo molto discusso metodo Stamina, poi rivelatosi una truffa, promette ancora di guarire con le cellule staminali da malattie molto gravi. Ebbene, è stato arrestato Davide Vannoni perché stava rilanciando Stamina all'estero. Raccontano i giornali intanto che operava in cliniche in Georgia, a Tbilisi, nella capitale della Georgia, ex Unione Sovietica, e poi stava per andare a Santo Domingo, dove alcuni suoi collaboratori avevano già trovato ospitalità per la sperimentazione del metodo in una clinica del luogo. Arrestato, Vannoni voleva fuggire. Questo è il titolo del Corriere della Sera, ma anche Repubblica. Nuovi guai per Vannoni, fermato prima della fuga, voleva esportare il metodo Stamina. E tra l'altro fioccano le testimonianze. Repubblica intervista Roberto Villalta, ex collaboratore, che non è mai stato totalmente persuaso del metodo Stamina, ma mia moglie, malata di SLA, riponeva speranza in questa cura, non potevo dirle di no, ho speso tutta la mia liquidazione, 30.000 euro, ma già ho avuto dubbi dopo l'ultimo viaggio a Tbilisi al seguito di Vannoni. E ci sono varie testimonianze qua e là. Invece vi segnalo che per il giornale Antonio Signorini, pagina 4, c'è un pasticcio della tassa Airbnb. La cosiddetta tassa Airbnb, impropriamente questa cedolare secca al 21%, di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana ospitando il country manager di Airbnb in Italia, è impossibile da applicare. Questo almeno racconta il giornale. I property manager smontano la norma sugli affitti brevi perché è piena di sviste. Così pagherebbero in pochi. Per esempio, una di queste sviste è un abbaglio tecnico, perché incaricati di scuotere la tassa sono i cosiddetti intermediari, ma i siti web, per esempio, dove si appoggiano queste richieste, non sono intermediari. E quindi, secondo l'applicazione rigorosa di questa norma, scritta almeno così com'è, secondo molti esperti non si potrebbe applicare questa tassa definita, ripeto, impropriamente famosa norma Airbnb. Comunque il giornale dà uno sviluppo di questa storia che abbiamo seguito, lo trovate a pagina 4. È anche interessante l'apertura della Stampa, è la notizia principale per la quale il quotidiano di Torino dedica due pagine, pagina 2 e pagina 3. Adriatico di plastica è uno studio sull'ambiente, sul mare, su tanti mari e anche il mare Adriatico, secondo il quale Davide Lessi e Raffaele Zanotti raccontano a pagina 2. Secondo questo studio, nel mare Adriatico spiagge e fondali sono pieni di rifiuti. Sono i dati di una ricerca senza precedenti chiamata Marine Litter Assessment in the Adriatic and Ionian Seas. Soprattutto, sapete cosa si trova? Tantissimi cotton fioc, quei bastoncini utilizzati e cotonati per pulirsi le orecchie in generale, no? Sono il terzo rifiuto più trovato nei 31 siti costieri studiati. E secondo Tommaso Fortibuoni, 37 anni, uno dei due italiani autori di questa ricerca internazionale finanziata dall'Unione Europea, uno dei motivi potrebbe essere la cattiva abitudine di gettare i bastoncini negli scarichi domestici, ma è strano perché chi gestisce i depuratori dice che dovrebbero bloccarli i filtri. Oppure le navi da crociera, oppure i cotton fioc potrebbero essere portati dai fiumi e provenire dagli scarichi delle navi da crociera, per l'appunto. Comunque, in questa ricerca che vi invito a leggere, spiegata, pagina 2-3 della Stampa, si parla di un Adriatico di plastica. Ovviamente è un po' esagerato, però ogni anno buttiamo nel mare 500 miliardi di sacchetti della spesa. E poi i danni sono abbastanza evidenti per noi e per le generazioni future. Cari amanti, cari mogli, cari mariti, per un SMS Galeotto ha perso moglie, amante e patrimonio. Attenzione, perché Melania Rizzoli racconta questa storia in prima pagina di Libero. Perché mi guardano tutti con molta attenzione dall'altra parte del vetro? La consorte ha letto un messaggino equivoco e tanto è bastato in tribunale a motivare l'obbligo, una violazione dell'obbligo di fedeltà del marito, e dunque il divorzio è a carico di lui, che per di più aveva detto all'amante di essere libero, e quindi ha perso anche l'amante, e per di più ha perso anche il matrimonio in questa lunga storia raccontata da Melania Rizzoli. No, ma in realtà è molto interessante, perché è bastato questo messaggio, non un tradimento beccato, ma un messaggio equivoco per dire: vedete, va bene, dai, siamo sulla verità. Eccola qua, la pagina che vince oggi la carta costa, le nozze miliardarie con i fichi secchi, il boom salutare della frutta secca. Ma chi se ne frega!